مرحبا بالصباح الجديد وباليوم السعيد. Benvenuto sia il nuovo mattino e il giorno felice. وبالملكين الكتبين الشهيدين العدلين. E così sia per i due angeli scrivani, testimoni giusti. حياكم الله تعالى في غرة يومنا هذا. Che Allah dia a voi due lunga vita nell'inizio di questo nostro giorno. اكتب في أول صحيفتنا. Scrivete nella parte prima della nostra pagina odierna. Bismillahirrahmanirrahim. Nel nome di Allah, il sommamente misericordioso, il clementissimo. Wa shahada bi annana nashhadu an la ilaha illallah. Siate voi due testimoni che noi rendiamo testimonianza che non c'è divinità tranne Allah. Wahdahu la sharika lah. Unico, senza compartecipi nella sua qualità divina. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. E rendiamo testimonianza che Muhammad è suo servo e apostolo di lui. Arsalahu bil huda wa dinil haq, che egli ha inviato con la guida e la religione della verità. Liyuzhirahu ala dini kulli, per farla trionfare su ogni altra religione. Walau karihal mushrikun, anche se ciò è deprecato dagli associatori ad Allah di falsi dei. Ala hadihi shahadati nahya wa alaiha namut. Su questa testimonianza noi viviamo, su essa noi moriamo. Wa alaiha nub'athu insha'allahu ta'ala. E su essa risorgeremo se Allah vuole.